Parliamo nel sondaggio della proposta CGIL di tassare la ricchezza. Avremo anche ospite Oscar Giannino, il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Saluto l'onorevole Gianluca Pini della Lega Nord. Buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno a voi. Protagonista della nostra intervista, oggi colui che... Lei si arrabbia se lo definiscono colui che vuole allargare la responsabilità civile dei giudici? No, arrabbiarsi ormai in politica diventerebbe insomma un esercizio così abbastanza inutile. No, noi in comunitaria, la legge che è annuale, alla quale io sono relatore, cerchiamo semplicemente di sancire dei principi, e uno di questi principi che segue le indicazioni date dalla Commissione europea è quello di definire in maniera diversa quella che è la responsabilità civile dei magistrati in Italia, perché è molto più ristretta rispetto agli altri stati membri dell'Unione. Cioè, dice, dobbiamo adeguarci a quello che ci chiede l'Europa, allargare anche il concetto di responsabilità civile ai giudici che sbagliano per manifesta violazione del diritto. Così ci chiede Bruxelles, insomma, lei sta dicendo. Così ci chiede Bruxelles con una infrazione, con una procedura di infrazione aperta nel 2009 e con una citazione in giudizio alla Corte di Giustizia nel 2010 che ci porterà a sentenza nel giro di un mese e mezzo. Quindi c'è anche una certa urgenza, fra l'altro mi permetta, una urgenza che è stata segnalata non più tardi di un mese fa dall'Avvocato Generale dello Stato durante un'audizione alla Camera. Ma sa che chi tocca la giustizia in Italia, insomma, tema scottante. Il capo dell'ANM, Palamara, ha detto che è iniziata la stagione punitiva verso i magistrati. Guardi, non lo conosco, non mi occupo di giustizia, mi occupo di tutt'altro. Il mio ruolo di relatore mi impone di recepire tutte quelle che sono le indicazioni fondate, naturalmente, che arrivano dall'Unione Europea per sanare le infrazioni, anche perché le infrazioni, forse i cittadini non lo sanno, se diventano poi condanne nell'arco mediamente di un anno e mezzo, condanne da parte della Corte di Giustizia, si trasformano in sanzioni economiche e anche molto pesanti per lo Stato. Qui si parla di centinaia e centinaia di milioni. Sì. Insomma, la responsabilità civile per il momento per i giudici in Italia è per dolo, colpa grave, ma l'Europa ci chiede di allargarla alla manifesta violazione del diritto. Cos'è una manifesta? Poi che cos'è una manifesta violazione del diritto? Cioè, questo è il tema, infatti, perché io in maniera molto asettica ho depositato un emendamento in qualità di relatore che appunto recepisce quello che è scritto nelle indicazioni della Commissione europea. Ora si tratta di definire in maniera efficace questa manifesta violazione del diritto. Io ho detto fin dal primo momento che non ci sarebbero stati problemi nel dialogare per trovare un testo condiviso sulla definizione della manifesta È un po' vaga questa idea. Senta, su però questo oggi siamo d'accordo. Ecco, i giornali oggi, prendo Corriere Repubblica, danno due versioni diverse. Corriere, responsabilità dei giudici, la maggioranza frena, si va verso il ritiro dell'emendamento Pini, così ormai ribattezzato. Per Repubblica, il cavaliere tira dritto, gli va bene l'emendamento Pini, soprattutto perché è presentato dalla Lega, così non ci accusano di aver fatto una norma a noi. Perché ride? Rido perché nessuna delle due, innanzitutto non è più un emendamento ma fa parte del testo votato dalla Commissione. Quindi ma rimane o no? Cioè viene ritirato, rimane, si torna? Io non penso che venga ritirato, penso che venga integrato da quelle che sono le osservazioni fatte dalla Commissione Giustizia, che in quanto osservazioni devono essere tenute in debita considerazione, e così come devono essere tenute in debita considerazione tutti gli emendamenti che alla data di ieri sono stati depositati dalla maggioranza ma anche dall'opposizione. Io l'ho detto in fase di dibattito in commissione, questo è il testo base, dopodiché qualsiasi intervento migliorativo io sono in qualità di relatore sempre disposto a valutarlo, ad armonizzarlo con altri interventi migliorativi, se si vuole affrontare la problematica in maniera seria e non pregiudiziale. Ha ascolto chiunque, anche il dottor Palamara, se mi vuole far pervenire in qualche modo un suggerimento. Non sono pregiudiziale rispetto a questo testo. Anche l'avvocato Ghedini, perché qualcuno ha detto gli ha suggerito la norma. No, lei si è, guardi, io l'avvocato Ghedini lo dico sinceramente, non lo conosco. L'avvocato Ghedini non lo conoscevo, poi naturalmente toccando materia di giustizia ci siamo incrociati telefonicamente perché voleva capire anche lui. La chiamata, cioè vi siete chiamati? Sì, assolutamente. Beh, naturalmente ho parlato non solo con l'avvocato Ghedini ma anche con il ministro Alfano e con tutti quelli che si occupano di giustizia, perché naturalmente se si fa una norma che riscrive una regola così delicata e importante. E cosa le hanno detto? Cioè che è giusto? Cosa le hanno detto? Che ha fatto bene perché l'Europa ce lo chiede? No, volevano capire un attimo la fondatezza dei rilievi posti dall'Unione Europea, e gli ho fatto pervenire tutta la documentazione, che di fatto sono appunto due sentenze, una che riguarda sono due sentenze, che una si chiama sentenza Traghetti del Mediterraneo e l'altra si chiama sentenza Köbler, nelle quali appunto vengono fatti questi rilievi. E sulla somma, io ripeto, non faccio l'avvocato, faccio tutt'altro. Non mi occupo di giustizia, mi occupo il relatore di evitare. È il relatore di questo provvedimento. Appunto, non è che me ne voglio lavare le mani, anzi, sono orgoglioso di quello che ho fatto, glielo dico chiaramente. Mi occupo non solo in materia di giustizia, ma anche in altre, anche per altre materie, di evitare che l'Italia venga sanzionata dalla Commissione Europea e paghi miliardi di multe. Senta, come accadeva in passato. Nel ringraziarla e salutarla, leggo dalle dichiarazioni dei redditi che lei ha due Harley Davidson, tre accidenti, e sta prendendo anche una bianchina. No, la bianchina l'ho ereditata dal mio povero nonno. Dal suo povero nonno. Ma è la bianchina Fantozzi, no? No, è quella Station Wagon, chiamiamola così, giardinetta. La giardinetta, va bene. Dalle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari. Adesso non scappate. Grazie, onorevole Pini. Nessuno vuole scappare, guardi. No. Nel senso, però con Harley Davidson ce la farebbe. Onorevole Gianluca Pini, grazie con le sue tre Harley Davidson per essere stato con noi della Lega Nord. Buona giornata, ovviamente. Noi ci fermiamo e parliamo di tasse nel nostro sondaggio, perché la CGIL propone questo: una tassa sulla ricchezza, sui grandi patrimoni. Siete d'accordo? Tra poco votate il sondaggio intanto, e tra poco 800 24 00 24, se volete intervenire ne parliamo. 24 mattino. 8:34 minuti, eccoci qua. Allora, nel nostro sondaggio parliamo di questa proposta della CGIL di tassare la ricchezza. Noi l'abbiamo tradotta così, ma ci spiegherà tutto in concreto poi chi la propone. È il tema del nostro sondaggio. Siete d'accordo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? In Francia c'è l'imposta di solidarietà sul patrimonio, di fatto una tassa sulla ricchezza. La CGIL, con il suo Dipartimento delle Politiche Economiche, ha fatto uno studio pensando a cosa si potrebbe guadagnare facendo un'imposta per i super patrimoni in Italia. Ce la spiegherà e ce la spiega Danilo Barbi, che è segretario confederale CGIL e capo del Dipartimento Politiche Economiche del sindacato. Buongiorno Barbi. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Sicuramente contrario invece a questa idea di tassare la ricchezza è il nostro, e sono contento ogni tanto di averlo, eccolo qua, Oscar Giannino. Buongiorno Oscar. Buongiorno, ma tu prima ce l'avevi pure con l'Harley Davidson, hai detto tre volte, lei ha tre Harley Davidson. Guarda che rideva l'onorevole, rideva l'onorevole Pini, non ero io che rideva. Beato lui, insomma. Vabbè. Procediamo. Allora, Danilo Barbi, ci spieghi questa idea, cosa volete, tassare la ricchezza? Beh, vogliamo fare una cosa che ci sembra necessaria per questo paese, che ha bisogno di recuperare risorse per rimettere in moto l'economia e per dare una prospettiva di sviluppo e un futuro ai giovani. La proposta che noi facciamo è semplice, è l'adozione esatta di una cosa che esiste già da 20 anni in Francia. Sì. È una tassa, diciamo, sui grandi patrimoni, sulle grandi ricchezze, noi la chiamiamo in questo modo, imposta sulle grandi ricchezze. Ci dica il limite, cioè chi dovrebbe pagarla secondo questa proposta? Beh, la proposta francese funziona così. C'è una quota esente di 800.000 euro sopra la quale si paga in modo progressivo una aliquota dallo 0,5 all'1,8. Perfetto. Quindi i patrimoni sopra gli 800.000 euro pagano, non so, chi ha 800.000 euro o poco più, 0,5% di 800.000 euro. Chi ha un milione di euro paga lo 0,5 sulla quota residua, cioè sui 200.000 euro di ricchezza patrimonializzata sopra gli 800.000 euro. Perfetto. Sì. Quei 200.000 euro, se uno ha un milione, vengono tassati al 0,5%. Sì, esatto. Poi si cresce fino all'ultima aliquota, diciamo, per le ricchezze, diciamo, enormi, che arriva all'1,8. Secondo questo vostro studio si potrebbero guadagnare, si potrebbero recuperare questa tassa quanto? 18 miliardi di euro, mi sembra aver capito. Sì, questo è il massimo potenziale. Poi ovviamente ci sono complessità tecniche, perché ovviamente ci sono detrazioni, perché la tassa francese funziona in modo che, per capirci, se uno ha un mutuo per pagare una casa, la quota del mutuo è una quota che detrae dal valore patrimoniale, no? È considerata una spesa, così come se ha delle proprietà azionarie e fa degli investimenti in aumento di capitale, quindi in investimenti produttivi, questo abbatte il montante su cui è applicata la tassa. Quindi, diciamo, è solo sulla ricchezza accumulata, sulla ricchezza, e non impiegata e non messa in circolo. Allora, Oscar Giannino, questi 18 miliardi di euro di tesoretto ti piacerebbero così? Credo di no. E perché? Allora, c'è qui Danilo Barbi. Sintetico, semplice. Qui siamo all'antitesi ideologica, perché questa è una questione ideologica, perché Barbi ha detto, e questo è il punto di vista della sinistra, del sindacato che rappresenta, che queste risorse aggiuntive servono per le risorse per far crescere il paese del lavoro giovane. Queste risorse sottratte dalle mani del spendaccione più inefficiente che esista, cioè lo Stato, sarebbero risorse sottratte ulteriormente alla causa della crescita, perché sarebbero risorse che verrebbero intermediate dal pubblico, che sbaglia, perché ne sa meno di noi. Un altro 1,2% del PIL, che si aggiungerebbe al 43,8% ufficiale di pressione fiscale, che detratto il 17% che non le paga e sta nel denominatore, cioè il PIL, farebbe arrivare la pressione fiscale al 55% del nostro PIL, cioè ai vertici di tutte le graduatorie. Quindi io sono contrario e contro, e così il 17% non ci perdiamo tempo, va levato dal PIL. Quindi noi passeremo dal 52,4 con questo 1,2 su un PIL detratto dal 17%, ho fatto il conto, al 54,8. Non c'è bisogno di questo, c'è bisogno di fare il contrario: meno tasse sul lavoro e sulle imprese, non più tasse. Credere che più tasse a questo Stato siano la soluzione, non il problema, significa non aver capito il problema che noi abbiamo alle io spalle. Voglio aggiungere, oltretutto, che poi, faccio presente che questo 5%, il 5% al totale dei contribuenti, non è la minoranza risibile di super paperoni, non si tratta affatto di questo, si tratta di colpire, in altre parole, coloro che hanno il mattone, cioè l'85% degli italiani. No. Basta avere. Su questo, no? Come no? Perché no? È esente il mattone? Perché? E come si fa vediamo, a calcolare? Vediamo, allora, chi ha una casa. Chi si colpisce? Voglio sapere chi si colpisce. Perché vediamo, come sapete, vediamo. Non si colpisce certo l'amministratore dire. Delegato della Fiat che le paga già in Svizzera. Sentiamo Barbi. Quindi chi è che ha questi super paperoni? Chi sono? Chi sono? Glielo so dire con precisione, perché abbiamo valutato con molta precisione la proposta francese sulla struttura della familiare, del patrimoniale, che la Banca d'Italia, diciamo, nei suoi studi al patrimonio 2009 ha definito. Allora, l'imposizione francese non c'entra niente con la tassazione sul lavoro, sulle medie della tassazione. Noi non stiamo parlando di ricchezze impiegate in investimenti, stiamo parlando di ricchezze messe da parte. Quindi l'obiezione che fa Giannino è assolutamente campata per aria. Lei è quella, cioè, sì, ideologica. Investite come? Dica per quanto come? Riguardi, scusi, dica per come? Riguarda, conti bancari, ci sono dentro conti bancari? Posso parlare? Sì, sì. Risponda, ci sono i conti bancari e il mattone? Conti bancari e mattone, ci sono conti bancari e mattone? Per quanto riguarda i numeri, sì, sono molto precisi. Non risponde, vuol dire che ci sono, cari ascoltatori. Pronto? Barbi, allora la domanda che le fa Giannino è questa, risponda a questa, se no andiamo. I conti bancari. Rispondo. No, dica, i conti bancari ci sono, il mattone c'è in questo ci studio? Ci sono tutte le ricchesse, ma tutte le ricchesse. Bisogna, anche il posso mattone. Dire, posso sì. dire un numero? Sì. Perché noi abbiamo studiato la cosa, non so se Giannino l'ha studiata. In Italia ci sono 24 mi consenta un sorriso su questa cosa di dire che adesso i numeri me li medesimo. Oscar, aspetta. Ma perché è così nervoso? No, scusi. No, ma non sono nervoso. Numeri. Chi vuole i soldi allo Stato numeri, è amico di un ladro, numeri. Capisci? È amico di un ladro il mio Barbi. Pronto? Lei rappresenta numeri. I lavoratori, deve essere contro il ladro, cioè lei lo Stato. Ascolti Oscar, numeri. Fermati un attimo. Sono il conduttore io fino alle 9. Barbi, dica. Conduca. Allora, sì. sono queste. Ci sono in Italia 24 milioni di famiglie, stiamo parlando di una tassazione sul patrimonio familiare, non su quello individuale, ovviamente. Ci sono 24 milioni di famiglie. Sì. Applicando esattamente diciamo il montante francese di esenzione, lo pagherebbero in Italia meno del 5% di queste famiglie, sì. cioè circa un milione di famiglie su 24 milioni. Ma il problema milioni. È quali? Però posso dire una cosa particolare, che l'incasso italiano sarebbe un po' superiore a quello della Francia, anche abbastanza significativamente. Sa perché? Perché in verità, studiando esattamente queste statistiche, si vede che in Italia ci sono molti più, diciamo, ultra ricchi che in Francia. Lei pensi che l'1% della popolazione Falso. Delle famiglie italiane detiene Falso. Qualcosa come il 15%, diciamo, della ricchezza patrimonializzata? Lo dico non in percentuali ma in cifra assoluta. Sì. 240.000 famiglie italiane detengono 1.270 miliardi di euro di ricchezza patrimonializzata, 240.000 famiglie, cioè l'1%. Quindi, morale, la tassa in Italia la pagherebbero il 5% delle famiglie e il 95% no. Posso dire molto rapidamente, sì, posso dire molto rapidamente che il 10% delle famiglie italiane è al 47%. Questi sono ecco, i dati. Va bene, ma è lo Stato ladro finito, caro conduttore? È finita la difesa dello Stato ladro oppure bisogna ancora aspettare come e perché bisogna depredarsi? È finita, no, la finita. 10% contro lo Stato dei contribuenti italiani al 47% al totale della ricchezza. In Francia il 10% al 53%. Piantiamola lì di dire che in Francia è distribuita meglio che da noi, perché non è così, non è così. Noi siamo il secondo paese del G20 per totale del patrimonio a testa. La mediana di chi ha più di 25 anni, la mediana è di circa 118.000 euro a testa, la mediana, mentre in Francia è della bellezza di quasi 35.000 euro più bassa. Quindi in Francia è distribuita peggio. Punto numero due, qua si parla di tassazione familiare. Mi tocca l'obbligo di ricordare che la tassazione familiare nel nostro ordinamento non esiste. Qui c'è il contribuente solo individuale, lo ha stabilito la Corte Costituzionale, la bellezza di 46 anni fa, purtroppo. Tanto è vero che la Francia applica la tassazione familiare per dare gli incentivi ai figli in Francia, e lì si può fare la tassazione familiare per quello. Qui esiste solo la contribuzione individuale, mentre invece vogliamo rimanere con la contribuzione individuale per non dare aiuti alla famiglia, e dovremmo introdurre naturalmente quella familiare solo per farci tassare a patrimonio dallo Stato. Ecco, quindi queste ragioni, ma per tante altre ragioni, perché si tratta semplicemente di fare più distribuzione in nome di questi mitici 5% delle famiglie e non dei contribuenti, sono praticamente il 10% dei contribuenti. C'è modo e modo di truccare le cifre. Queste sono cifre truccate, ma perché? Perché per dare una mano allo Stato ladro, che trucca le sue cifre, inevitabilmente si assume lo stesso comportamento, si diventa scorretti nel fare le cifre, perché i fondamenti di questo sistema non sono quelli del nostro ordinamento. Io preferisco usarli per dare più spazio alla famiglia, non per levargli ossigeno e mattone. Gli italiani sbagliano ad avere troppo mattone, ma questo significa colpirli nelle loro tasche dicendo che sono i paperoni, mentre il signor Marchionne, che sta a Zucchi in Svizzera, non ci rientrerebbe. Quindi la differenza c'è la polemica Oscar perché il report ha fatto vedere la casa. Vi leviamo di più casa, per dare a chi ha troppo e spreca, lo Stato che è un ladro. Va bene, sai che hanno fatto vedere la casa di Marchionne, report, si sono arrabbiati. Infatti l'hanno fatta perché erano anni che chiedevo, ma com'è che si applica l'evasione fiscale solo ai poveretti? No, vabbè, però mentre la casa, invece cioè, a chi ha, giustamente aggiungo io. Senti, fermati un attimo Oscar, che devo dare le informazioni sul traffico. Comunque guardi che Barbie non è nervoso, Oscar Genio, è sempre così. Poi se lei lo tocca sullo Stato ladro e sulle tasse, questo è l'effetto, insomma. Comunque il traffico, poi sentiremo anche qualche ascoltatore che ne pensa, insomma, di questa proposta. C'è da dire, Oscar, intanto medita su questo. Il 57% per il momento, 57 è a favore di tassare la ricchezza. Ma tu tanto dici noi si siamo comunisti. Si candidino loro al mio posto. Okay. Io vado in piazza e secondo me vinco. Vabbè, insomma, va bene. Il traffico tra poco. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, allora, qualche ascoltatore. Arturo da Roma, buongiorno. Siate sintetici per cortesia, favorevole o contrario? Io favorevole, però sono anche in qualche modo d'accordo con Giannino, per cui io direi che quei soldi incassati dalla tassazione sui patrimoni dovrebbero andare alla riduzione delle tasse su tutti gli altri. In questo modo non si avrebbero... È qui l'inghippo, dice che Oscar dice non è possibile, però lei è favorevole, però vengano utilizzate per far abbassare le tasse. Va bene, grazie Arturo. Giuseppe da Udine, buongiorno. Buongiorno, io sono un consulente finanziario, investo abitualmente in titoli azionari. Parliamo di Eni ad esempio, sì. Trovandomi a investire su Eni già paga il 40% di tasse direttamente, pago tasse sui redditi da Eni per un altro 12,50%, che diventerà il 20% con l'aliquota delle nuove rendite finanziarie, arriviamo al 60%. Se dovessimo istituire una tassa dell'1% sul patrimonio, arriveremmo all'80% di tassa pagata se io investissi solamente su quel titolo. Ora mi si spieghi qual è l'equità di questo procedimento. È più giusto invece dire colpiamo l'evasione dove c'è con il redditometro e facciamo in modo che lo Stato sia meno... Insomma, lei non è favorevole. Grazie, grazie Giuseppe. Voglio andare a Padova da Enrico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono favorevole anche perché mi sembra assolutamente ragionevole andare a cercare di capire chi ha patrimoni finanziari o comunque diciamo delle cose che non giustificano il reddito che dichiara. A inserire un concetto di patrimoniale. No, scusi Enrico, un conto dice se andare a vedere chi ha un patrimonio e perché, cioè un conto è se è frutto di un'evasione, ma se uno ha un patrimonio che l'ha guadagnato, cioè secondo lei dovrebbe essere tassato perché questo patrimonio eccede, cioè per questo principio deve essere un'occasione per reinserire il concetto di patrimoniale nel senso che chi ha patrimonio deve anche averlo dichiarato in conseguenza. Diciamo è utile nel concetto di... Vabbè, ma questo sì, cioè che facciamo conto che uno dichiari tranquillamente tutto e ha 5 milioni di euro, dovrebbe essere tassato, secondo lei dovrebbe dare un contributo in quanto ricco, perché questa è la proposta della CGIL, quello va nell'ottica di capire, piuttosto che mettere un centesimo sulla benzina di tutti, sì. E allora a questo punto continuiamo con il concetto che c'è in Italia, dove paghiamo tutti, anche chi non ha i soldi. Perfetto, paghino i ricchi, questo paghino, dice. Ecco, in questo senso paghi sono chi ha di più. Certo. Allora, grazie Enrico. Barbie, le chiedo, è spinto anche qualche giornale, ha scritto per un'antipatia che ha la CGL verso la categoria ricchi. Insomma, lei sposa l'idea del una domanda, anche i ricchi piangano? No, ma cosa piangono? No, vabbè, fu uno slogan politico anche abbastanza. No, ma vede, lei ha fatto un esempio, che è un patrimonio di 5 milioni, con la tassa, sempre applicando, in Francia si chiama tassa di solidarietà sulla fortuna. Sì, infatti. Forse perché i francesi hanno avuto un filosofo come Rousseau che diceva alla fine del Settecento che la ricchezza dei poveri sono i figli e la ricchezza dei ricchi sono i genitori, sono più pronti, ma insomma la chiamano così, no? Quindi lasciamo perdere la questione del piangere. Io piangere, secondo me in Italia piangono i precari e gli operai in cassa integrazione che sono licenziati. Uno che ha un patrimonio di 5 milioni con l'applicazione della tassa francese pagherebbe 8.000 euro all'anno. 8.000. Quindi, senta, voi avete fatto, dire, voi avete, un avete fatto il calcolo non anche su Berlusconi? Non mi sembra una gran lacrima, no? No, vabbè. No, io ma il principio. Scusi Barbie, come l'ha fatto di equità? E penso che è giusto perché, come dicevo, permette da una parte interventi di sostegno dell'economia che le imprese chiedono, vorrei ricordare al signor Giannino, sì. E dall'altra parte, come giustamente ha detto un ascoltatore, una parte dovrebbe essere utilizzata per ridurre invece le tasse a chi ha stipendi medio-bassi e sicuramente le tasse le paga tutte e non può Barbie, evadere. Però scusi, non discutiamo tanto dell'entità, è come la questione del un centesimo di accise per finanziare la cultura. È il principio di cui stiamo discutendo, è il principio che conta. No, ma il principio fosse anche è il principio di equità, ma serve a ridurre le tasse a chi le paga e serve a rimettere in piedi, a sostenere, diciamo, la domanda su questo risponde Oscar Giannino, ma voi avete fatto anche il calcolo di quanto pagherebbe Berlusconi visto il suo reddito? Sì. Quanto? Circa 56 milioni di euro l'anno. Oscar, siccome 56 milioni di... voglio sì, questa è una maniera veramente impropria. No, questa è una maniera veramente totalmente impropria di affrontare la faccenda. A me interessano i milioni di italiani col mattone che stanno oltre questa soglia e che stanno al più alto. Non è vera. Ma prima non Barbie ha detto che c'entra prima e chi ha il patrimonio, il mattone. La domanda Conti e mattone ha detto sì, adesso dice che non è vero. Non lo so, no, ce lo dica. I numeri sono precisi, non fate confusione. Ma uno può non essere d'accordo. No, abbia pazienza, risponda. Ma c'è il mattone, Conto? Può dire sì o no, Barbie, invece che continuare a dire... Effettivamente, su questo siete precisi. Su questo non può dirlo. Allora, se non può dirlo, vuol dire che non lo vuole dire, Barbie. No, io lo voglio dire. I italiani che pagherebbero questa tassa, in cifra non familiare, sarebbero 2.500.000. Ma mi dica se sul mattone... C'è il mattone e Conto dentro o no? Effettivamente da mezz'ora. E allora... Abbia pazienza, santo Dio, quei 2.5 milioni di italiani che hanno dentro il Conto e il mattone. Faccio notare che fino a questo momento i titoli non sono nominativi, quindi in questo c'è anche il cambio, l'uscita dalla cedolare secca di titoli azionari, per esempio, e diventa tutto nominativo. Il non detto è anche il fatto che noi rendiamo ancora più occhiuto e penetrante, capite, il fisco di quanto già non sia. Il fisco è una cosa che a me, per esempio, su una delle mie due società, l'anno scorso mi ha detto, secondo lui, qual era la mia cifra d'affari. Poi mi ha detto qual era secondo lui l'imponibile che io ho realizzato. Poi mi ha detto anche qual era l'imposta che io dovevo e se l'è venuta a prendere. Allora, già siamo in una situazione di questo tipo, che naturalmente viene dipinta come il meglio del meglio in una società naturalmente trasparente e democratica. Io credo di no, perché lo Stato si prende in 30 giorni nel mio patrimonio, nei miei conti, quello che non mi paga in anni. Quindi questa è una roba da schiavi e da sudditi. Io non accetto ulteriormente di dover essere più trasparente. Più trasparente di così, siamo sul rogo noi poveri contribuenti autonomi. Uno, due, siccome c'è dentro mattone significano quei poveri 2.500.000, 3 milioni di italiani, non sono sicuramente i paperoni da grassare, perché quello che hanno messo là dentro è stato tassato già 4 o 5 volte in quanto frutto di diverse produzioni di reddito, e quindi significa semplicemente aggiungerci un'altra cosa. Ripeto, ci sono punti di vista e punti di vista. Io capisco l'ispirazione, la storia che c'è dietro, chi crede che aggiungendo pressione fiscale si faccia più crescita. Nel nostro paese è vero il contrario, cioè è vero che nel nostro paese non significherebbe non aver avuto Rousseau, il problema è che significherebbe aver avuto nel passato di quel paese chi tagliava le teste, perché questa è una cosa molto giacobina. La rispetto, dico che nel nostro paese c'è bisogno dell'esatto contrario, Oscar, cioè io... c'è bisogno di meno spesa pubblica, mentre invece la CGIL crede che alzando la spesa pubblica in mano dei politici si faccia sviluppo. È un'illusione. Devo chiudere però, Oscar, per darti la che è esatto contrario di quello di cui però c'è bisogno. Oscar, siccome oggi ti ho fatto arrabbiare abbastanza, ti voglio chiudere con una buona notizia. È questa la lista Falciani, te la ricordi, no? Quella di Hervé Falciani, che l'ha sottratta, sì, da una banca, procuratasi dai servizi segreti. Bravo, in Francia uno nella lista Falciani ha fatto ricorso e l'ha vinto. Il giudice ha detto che quella lista Falciani è stata ottenuta con un metodo illegale, quindi ripetuto. Non può essere utilizzata. C'è persino un giudice in Francia che non solo a Berlino, più equilibrato, capisci? C'è anche dell'Agenzia delle Entrate italiane, che è tutto dire. Vabbè. Tagliatori di teste li abbiamo qua. Ma com'è finito il nostro sondaggio? Il sondaggio, beh, intanto è ancora aperto. Per il momento è credo al 57% sempre. Ma continuate a votare. A favore? No, sì. 54 è sceso, hai recuperato 3%. Vedi, ma non è che ho recuperato 3%. No, ragazzi, col tuo. Ma voi volete offrire la testa alla lama statalista? Ma è questo che volete? Ma pensate che quei soldi in più a cosa servano se non assumere amici degli amici dei politici? È questo che pensate che faccia crescita e sviluppo? Oppure chiamiamo la CGIL poi ad amministrarlo? Va bene, intanto la posso CGIL... dire una cosa? Sì. Mi fiderei 100 volte di più, mi fiderei. Non l'ho mica detto per mancare di rispetto a Barbie e alla grande confederazione del lavoro, che è un pezzo fondamentale di storia del sindacato della sinistra italiana. Ma il problema è che non lo gestirebbero mai loro, lo gestirebbero la politica di tutti i colori che abbiamo sotto gli occhi dovunque. Intanto li ringraziamo. Danilo Barbi, segretario confederale CGIL, grazie per essere stato con noi. Con Oscar Giannino. Oscar, tu c'hai Frattini tra poco, no? Ministro degli esteri Frattini, esattamente, quindi si parla di Libia e quant'altro. Grazie Oscar, ti aspetto quando vuoi. Io intanto saluto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e l'alpino Peter Bescapè in regia. Allora la linea rimane o passa a Oscar Giannino. A domani. Ener 20.